cerimonie collettive orge. Con criteri di cultura, tu succhiaci fino al midollo, fino in fondo, è inizio la tortura. E con foglio con nomenclatura chimica, ma qui aiuta solo la mia acqua santa. Vado a caccia con le slag, fuck off bingo. Col mio fucile uccido anche qualche flamingo. Mettiti in ginocchio che in fondo te lo spingo. Se fa male ti piscio dentro, rimedio casalingo. Lo stetoscopio è pronto, chiamami dottor Davi. Scrivo la ricetta mentre lo infilo proprio lì. Aiuta il suo sperma, dottor Davi. Medicus dice no, ma il mio cazzo dice sì. Lavoro duro, sono dottore, anche se potrei essere DJ. Scopo fetici, imbarazzo, Mr. Grey. Ho la cura, il mio prof era Dr. Dre. Se sei una malattia, vieni da me che c'ho la cura. Non sarò battiato neanche il dottor Stranamore. Qui ti si incula, facciamo cerimonie collettive orge. Con criteri di cultura, tu succhiaci fino al midollo, fino in fondo, è inizio la tortura. Quando passerà, quando passerà, quando passerà, e c'ho la cura. Quando passerà, quando passerà, quando passerà, e c'ho la cura, e c'ho la cura, e c'ho la cura, per la passerà. Sono criptonite, con tutte quelle curve a me mi rincretinite. Sto male, ve lo giuro, non è la gastrite. Vi metterei a 90 per curarvi le ferite. Ok, mi presento, sono il dottor Happiness. Vieni qui, ho tra le gambe il tuo antistress. Non ci sono controindicazioni per la passerà. Usalo, fai un bel sorriso e tutto passerà. Come puoi star sicura? Fotti te ne fotti, qui c'ho la cura. Che se al lavoro, in chiesa, a casa ad una festa, c'ho sta fissa per la festa. La figa sempre in testa, 5 giorni al mese, esce il sangue dal naso. Sarà il maestro, non ci avevo fatto caso. Ora fai l'infermiera, dai, fammi un prelievo adesso. Il segreto è fare molto sesso e farlo spesso. La tua malattia.